Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ottimizzare le relazioni tra i centri urbani in termini insediativi, ambientali, infrastrutturali ed economici. A questo dovrebbero servire le 10 città metropolitane nate dalla legge Delrio dello scorso aprile. Parliamo di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria più Roma città capitale. La riforma ha fatto coincidere il territorio delle città metropolitane con quello delle vecchie province, ma questa identificazione è poco convincente, dato che queste non riflettono quasi mai un'entità territoriale coerente dal punto di vista, come dicevamo, insediativo, ambientale o infrastrutturale. Tuttavia, i confini delle città metropolitane potranno cambiare successivamente con l'adesione di nuovi comuni. E ieri abbiamo visto che si possono mettere in campo criteri scientifici di stampo urbanistico per tentare di disegnare in modo coerente questi nuovi confini. Criteri che tengano conto di popolazione, densità abitativa e soprattutto della mobilità, studiando la quale si può capire quali sono i centri urbani con maggiore capacità di attrazione e su quale territorio la esercitano. Ebbene, stasera vedremo come questo approccio sia stato utilizzato per cercare di disegnare i confini di un'ipotetica città metropolitana veneta, in alternativa all'attuale provincia di Venezia. Questo in uno studio della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, in collaborazione con l'Università di Padova. Ne parliamo con uno degli autori, nonché dottore di ricerca dell'Università di Padova, Carlo Ghirardelli. Buonasera Ghirardelli. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, intanto, quali sono le peculiarità dell'area metropolitana veneta? Allora, le peculiarità dell'area metropolitana Veneta, che è l'area su cui abbiamo compiuto la ricerca, sono molteplici. Una principalmente è la diffusione insediativa e la diffusione delle infrastrutture, che è l'elemento cardine che poi ha definito l'approccio alla ricerca. Una volta si parlava di sprawling, no? Cioè, come dire, è una città bassa e spalmata, come molte peraltro in Italia, in quella zona. Esatto, una forte differenza invece l'abbiamo con la maggior parte dei contesti europei, certo, in cui invece la distinzione città, quindi città metropolitana e campagna, è ben definita. È netta. Questa situazione di peculiarità vi ha proprio portato ad elaborare degli indicatori appositi, diciamo, no? Al di là di quelli che abbiamo ricordato all'inizio, densità, popolazione e quant'altro. Certo, noi abbiamo degli indicatori consolidati, che sono indicatori comunque fondamentali anche per la nostra ricerca, ma noi abbiamo approfondito con due indicatori ulteriori che sono riconducibili comunque alla mobilità metropolitana. Il primo indicatore è l'indicatore pendolarismo locale verso il polo attrattore, quindi verso il capoluogo di provincia, e il secondo indicatore è il tempo di percorrenza, okay. Tempo di percorrenza metropolitano. Se ho capito bene, per esempio, avete detto vediamo quale area del Veneto sta entro 30 minuti dalle porte di uno di questi poli importanti, per esempio Padova o Venezia, no? Esattamente, 35 minuti, che okay, è appunto un tempo limite che ci siamo posti, abbiamo visto all'interno di questi 35 minuti come si comporta la mobilità metropolitana. Cosa è a 35 minuti da Padova, per esempio? Cosa è a 35 minuti da Venezia, no? Questo è, certo, è un po' il punto. Esatto. Ecco, e questi dati, a proposito, da dove li avete presi? Questo è un aspetto interessante. Dalla piattaforma Google, che mette a disposizione dei dati molto interessanti e gratuiti, forniti molto semplicemente dai fruttori della strada, certo, dagli automobilisti, con il proprio smartphone, con la propria connessione GPS, danno delle informazioni che ogni giorno vengono in qualche modo vagliate, aggiornate, e che peraltro oltre a voi chiunque altro potrebbe utilizzare se volesse fare un lavoro analogo. Questo per dire, questa ricerca che avete fatto non ha bisogno di dati che non si trovano, no? I dati sono dati grezzi, che poi ovviamente uno, certo, può in qualche modo indirizzarli come vuole, però i dati ci sono reali e quindi possono essere utilizzati da chiunque. Che cosa viene fuori dalle vostre analisi? Quali potrebbero essere dei confini ragionevoli per questa città metropolitana veneta? Certo, allora, i risultati sono interessanti, perché la città metropolitana veneta si discosta in maniera ferma dalla somma delle province, come invece dice la norma, dice la legge ad oggi. La città metropolitana che scaturisce dalle nostre analisi è sicuramente, come nocciolo principale, la somma dei poli principali del Veneto: Padova, Venezia, Treviso e Vicenza. Padova e Venezia poi sono praticamente un pezzo unico, certo, dalla vostra analisi viene fuori benissimo. Un unico elemento, sicuramente. La cosa interessante è che oltre a Padova, Venezia e proprio Interland, che è già elemento metropolitano, la nostra ricerca ha evidenziato anche i due baffi, diciamo, metropolitani, Vicenza e Treviso, come elementi che stanno all'interno di questo sistema. Gravitano l'intorno anche loro, esatto, insomma, sostanzialmente. Questo è il nocciolo principale, quindi raggiungiamo una popolazione che supera 1 milione di abitanti. E poi c'è una tendenza di questa città metropolitana a crescere, che è importante, certo, verso alcune direzioni, che sono la direzione dell'Alto Trevigiano, dell'Alto Vicentino, quindi nella zona della Pedemontana, e invece esclude alcuni brani territoriali, per esempio la zona della Venezia orientale. Va bene, grazie Ghirardelli. Bene, grazie a voi. È tutto, a domani.